Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti, di Leonardo Manera e Daniele Ceva. Buon pomeriggio da Leonardo Manera e Daniele Ceva. Noi siamo sempre... Scusi che l'ho interrotta subito, lo ridiciamo per bene. Buon pomeriggio da Leonardo Manera e Daniele Ceva. Vuoi aggiungere qualcosa? No. No, questa volta no. La ringrazio Ceva, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci. Allora no, siamo qui con Avanzi di Manera, questa piccola trasmissione perché ci prendiamo solo mezz'ora la settimana, dalle 14.30 alle 15, però per commentare delle notizie un po' curiose, insomma, che durante la settimana qui a Radio 24, che fa delle notizie il proprio specifico, ecco, magari non vengono trattate perché giustamente ci si occupa delle notizie principali, quelle che occupano le prime pagine dei giornali. Noi invece andiamo a scavare magari nei quotidiani online, nelle notizie più curiose che ci divertono di più in qualche modo, giusto Ceva? Giustissimo, io l'ascolto affascinato. Sempre quando lei parte con queste filippiche inutili, però vado avanti. Ma perché noi abbiamo iniziato relativamente da poco, nemmeno da un mese abbiamo iniziato, allora magari qualcuno non ci ha ancora mai ascoltato, è giusto anche raccontare, certo, qual è, spiegare bene chi siamo. Chi siamo? E occupandoci di notizie in qualche modo minori, però possiamo anche capire qual è l'evoluzione del genere umano. Perché? Perché una volta le delazioni, le spie, utilizzavano degli strumenti molto semplici, al massimo la telefonata, ecco. Sì. Invece adesso per fare una delazione si utilizza anche Twitter. E la notizia è questa: la multa via Twitter, le soffiate ai vigili arrivano con un cinguettio. A Roma può capitare di prendersi una multa via Twitter. Attraverso i social network, cittadini delatori segnalano alla polizia municipale le soste selvagge, le infrazioni dei bar, gli insediamenti abusivi. È come se il corpo dei vigili a Roma avesse al suo servizio un esercito di straordinarie spie. È proprio la capitale, la città dove il nuovo fenomeno delle multe 2.0, delle sanzioni social, sta esplodendo. Ha capito? Ho capito benissimo, ho appena mandato un Twitter dicendo che lei ha la macchina in doppia fila. Funziona, stanno arrivando. Vede come siamo incoerenti noi italiani. Un po' di tempo fa ci lamentavamo degli ausiliari del traffico, no? Perché li vedevamo appunto come degli spioni che, non facendo parte dei vigili, non avevano il diritto. Esatto, non erano degli ufficiali in divisa. E quindi li bersagliavamo di ogni parolaccia. Invece adesso tutti lì a twittare e a indicare. Si coltiva sempre ed esclusivamente il proprio orticello. Cello, caro Manera, qua non evolviamo mai. Le segnalazioni raggiungono una media di 7 all'ora, con una ventina di interventi al giorno delle pattuglie grazie alle denunce delle spiata community. La media di 400 multe al mese firmate grazie alle soffiate dei cittadini pigolanti. Me l'immagino. Allora, c'è la macchina del mio vicino che è sulle strisce pedonali e mandano un numero di targa. Che infamità che in modo, crea questa cosa. Sì, anche tra il vicino di casa. Proprio si crea un mondo di delatori. Sì, sì, guerre. E sempre a proposito di delatori o di spioni, o diciamo mantenendo quel mondo, ecco, la notizia che traiamo dalla Gazzetta di Parma è la seguente. Ad Esca, cognato su Facebook per dimostrare alla sorella l'infedeltà. Denunciato dalla polizia un 37enne senese. Ha capito cosa aveva fatto questo signore? Cioè lui pensava che il marito della sorella fosse infedele. Ha creato un finto profilo tra l'altro di donna, come fa lei normalmente. No, è vero, dopo la mezzanotte utilizzo quello da donna. E per cercare di adescare il marito della mi sono perso abbastanza, no, il marito della sorella, e invece lo stratagemma non ha funzionato. Esatto. E l'uomo, appunto questo senese, è stato denunciato dalla polizia di Siena per minacce aggravate e sostituzione di persona. Quindi questo è un reato, la sostituzione di persona. Sì. Il 37enne sarebbe anche arrivato a minacciare il cognato con una pistola giocattolo, quindi anche quella era finta. È stato denunciato per sostituzione di pistola. È un appassionato del genere finto. Sì, sì, sì. Tristissimo, molto amaro. Allora, ce l'abbiamo qualche battuta sulle spie, Ceva? Allora, i vicini di casa sono le uniche spie disposte a prestarvi mezzo chilo di zucchero. Enzo Costa. Vediamo questa. Mi stanno intercettando. È sicuro, perché mentre mia madre mi dava la ricetta dei cannoli ho sentito una voce che chiedeva: quando zucchero? Questa è di... Teresa Mannino, che tra l'altro in questi giorni è qui in teatro, al Teatro Nuovo, a fare il suo spettacolo Sono nata il 23. Vediamo un'ultima battuta sulle spie. Hanno detto che Romano Prodi era una spia del KGB, ma l'avete visto? Sarebbe come dire che Luxuria è una spia del Vaticano, questa di Roberto Benigni. Però in realtà sarebbe coerente che Luxuria fosse una spia del Vaticano, certo, perché è proprio uno sviare, no? Esatto, meno sospettabile rispetto ad altri. Ma dopo avervi fatto divertire da matti con queste battute straordinarie... Assolutamente, che... Quando finisco di ridere, ok, prego, vada. Cambiamo argomento, veniamo al lavoro. Questa volta la notizia è ambientata in Cina, ma evidentemente anche in Cina c'è il problema del lavoro. La notizia è la seguente: genitori portano il figlio in tribunale perché si è obbligato a trovarsi un lavoro. Vediamo com'è andata. Una coppia di genitori ha fatto causa al figlio portandolo in tribunale perché il giudice lo obbliga a trovarsi un lavoro. Il 29enne infatti si rifiuta di lavorare perché lo ritiene una cosa noiosa. Ma guarda, è strano, cioè dovrebbero andare in tribunale, credo, milioni e milioni di persone per questo. Ma per come questo se non bastasse, il ragazzo ha portato anche la fidanzata a vivere con i suoi genitori e vorrebbe che questi ultimi mantengano anche lei. Insomma, qui i genitori tutti torti non li hanno. Beh, certo, in Cina sono un po' più, sono meno, meno tolleranti rispetto alle famiglie italiane, che invece tengono spesso i figli, come lei che è rimasto con i suoi genitori. Io sono andato via da casa mia a 19 anni, si figuri. Ed è ritornato a 21. No, sono tornato a 47 adesso. Ah, ecco, bene. I media però accusano i genitori di aver educato male il figlio, facendolo crescere in modo viziato. Ma molti aggiungono che si tratta in Cina anche di una conseguenza della politica del figlio unico. Perché tu hai un figlio unico, cosa fai, Ceba? Lo tieni in casa. Lo vizi. Lo vizi molto dai di tutto, più rispetto. Il certo. Latte, la papaya. Gli dai tutto. Che non è tipico cinese, ma va bene. Gli dai, che ne so, il semolino, i biscotti di tapioca, tutte queste cose che normalmente ai figli che hanno dei fratelli non si danno. Gli spaghetti di riso. Gli spaghetti di riso. Quindi non viziate i figli, perché sennò non vi vanno a lavorare, dicono che è una cosa noiosa. E noi poi dovete portarli in tribunale, che tra l'altro costa. Ci sono avvocati eccetera eccetera. Comunque noi abbiamo voluto sentire anche cosa ne pensano gli italiani. Vediamo cosa ci avete risposto facendo qualche telefonata a caso. Sì. Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, la conosce? Sì, è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, la conosce? Sì. Senta, noi stiamo commentando questa notizia per cui i genitori hanno un figlio che non vuole lavorare e lo portano in tribunale perché si è obbligato a trovarsi un lavoro. Possiamo chiedere a lei cosa ne pensa? Secondo me non è di Radio 24 questo. No, sono di Radio 24. Pronto? Pronto, buongiorno, questa è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, la conosce? Grazie. Pronto? Buongiorno, noi stiamo commentando una notizia che è la seguente: genitori portano un figlio in tribunale perché venisse obbligato a cercare sul lavoro. Lei cosa ne pensa? Ma certo, è una cosa un po' anomala come genitore, però... Lei ha figli? Ha figli lei? No. È una figlia però? Sì. Sì, certo, ma è una figlia che lavora? È una figlia... Sì, che lavora. Quando ha cominciato a lavorare? Tanti anni fa o da poco? No, da poco veramente. E i suoi genitori l'hanno mantenuta fino all'anno scorso praticamente? Sì, sì. Si sono lamentati un po' però, gliela facevano pesare questa cosa? Un pochino. Ma lei pensa di aver sfruttato i suoi genitori, di aver pesato molto su di loro o no? No. E adesso in che rapporti è insomma con i suoi genitori? No, buoni, ottimi rapporti. Pensa che li vuole ripagare di quello che sì, ha avuto? Certo. Cioè, gli darà un tot ogni mese per... Sì, se uno può aiutare, certo. Quanto pensa di dargli ogni mese? Non le saprei dire. 300... Che è un fisso, una cosa, quindi non saprei dirle. 300 euro, così, 400 euro. Nemmeno, forse. 200, 250. Sì. Allora lei prende qui questo impegno alla radio a dare ai suoi genitori ogni mese 250 euro per ripagarle dei soldi che le hanno dato negli anni. Certo. Va bene, noi la ringraziamo molto per grazie la sua collaborazione. Buon pomeriggio, buona giornata. Grazie. Anche a voi, arrivederci. E allora, sempre continuando a occuparci in qualche modo di lavoro, vediamo, c'è questa ricerca e che ha approfondito quali siano le abitudini che infastidiscono maggiormente i colleghi in ufficio. E la ricerca è stata condotta dall'Institute of Leadership and Management, che ha coinvolto 2000 manager del Regno Unito, in Inghilterra. Vediamo un po'. Al decimo posto cosa dà più fastidio, Ceva? Usare gergo aziendalistico e frasi fatte. Al nono posto portare i figli in ufficio, cosa che io ho fatto qui a Radio 24 l'altra settimana. Infatti ha dato fastidio tantissimo. Saluto mio figlio Beniamino. Ciao Beniamino. Ciao Beniamino. All'ottavo posto. Venire al lavoro malati. Perché attacchi la malattia. Sì, ma di solito uno cerca una malattia per non venire al lavoro. Dipende che quando malattia. Dipende che malattia. La scabbia. Hai. Io voglio venire al lavoro malato solo se ho malattie molto infettive. Dove sarebbe se no il divertimento? Oppure al settimo posto fare frequenti pause sigarette. Di continuo vado a fumare una sigaretta in 5 minuti. Certo, poi abbiamo lasciare il cellulare con la suoneria a tutto volume. Che dà molto fastidio, non solo sul posto di lavoro, direi. Poi, al quinto posto, discutere in pubblico questioni riservate di lavoro. Allora, ho saputo che hai questo impegno molto gravoso per cui non ti pagano niente, Ceva. Ah sì, guarda, lascia perdere. Abbiamo al quarto posto mandare una mail al vicino di scrivania. Questa è una cosa che si usa molto, l'ho verificato in persona. Sì. Lavori nello stesso ufficio ma non si parla. Non dico ho mandato una mail, ma perché? No, poi gliela mandi e per dirgli che è arrivata una mail lo scrolli, gli dici uè, guarda che è arrivata una mail. Al terzo posto spettegolare su altri colleghi. Beh, ho saputo quello... che Ceba di notte esce vestito da donna. Allora, al secondo posto, lasciare piatti sporchi sulla scrivania dopo aver mangiato al posto di lavoro, il 63% questo. Sono cose veramente sgradevoli. E al primo posto, vabbè, arrivare in ritardo alle riunioni. Sì. Scusa, ho avuto un incidente. Ma se fai l'operaio... Non ho potuto, scusatemi, c'era coda in tangenziale. Se sei in catena di montaggio alla Fiat, ad esempio, non arriverai mai tardi ad una riunione. Allora, prima di proseguire, chiediamo al nostro curatore, Daniele Ceva, quanto tempo abbiamo a disposizione prima delle constatazioni del tempo? Un minuto e mezzo. E allora chiudiamo con qualche battuta sul lavoro. Vediamo, ne legga un paio qui, Ceva. Il lavoro più facile del mondo è quello del medico legale. Interventi chirurgici su persone decedute. Che cosa potrebbe andarti storto? Sentirne ancora il battito? Allora, vediamo questa. Nella vita contano soprattutto due cose, la salute e la voglia di lavorare. Io ho la salute e mia moglie ha la voglia di lavorare. Non abbiamo problemi. L'equilibrio perfetto. Questa è di un anonimo, vediamo un'altra. Maria fu assunta in cielo perché non trovava lavoro sulla terra. Anonimo. Anonimo veneziano. Va bene, allora noi, prima di lasciarvi con il traffico, vi salutiamo in questa prima parte di Avanzi di Manere con le constatazioni del tempo. Per essere sicuri di non sbagliare con le previsioni, facciamo le constatazioni. Vediamo se qualcuno di voi ci ha risposto. Pronto, buongiorno, qui a Radio 24, la radio... Ancora? Cosa volete ancora? Senta, noi abbiamo una rubrica che si chiama Constatazioni del Tempo. Siccome le previsioni spesso sono sbagliate, allora noi facciamo le constatazioni del tempo. Cioè, chiediamo che tempo c'era la settimana prima, per essere sicuri di non sbagliare. Ma sì, ma ascolti, ma a me non mi interessa niente. No, le chiediamo solo di dirci che tempo c'era da lei la settimana scorsa, domenica. Ma che ne so, io sono fuori dentro, ma... Ma cosa me ne frega a me? Scusi un attimo. Può dirci solo se domenica scorsa era bello o brutto? Ma sì, va bene, buonanotte. Ma chi è lo stesso dell'altra volta? Motosega? Avanzi di Manera. La rassegna stampa che non ti aspetti. E allora, dopo le notizie del traffico, siamo ancora qui ad Avanzi di Manera. Vi ricordiamo sempre che potete scriverci, il nostro indirizzo mail è avanzidimanera@radio24.it e potete scriverci, lo abbiamo già detto la puntata precedente, per due motivi sostanzialmente. O per suggerire, prima di tutto per salutarci, e la cosa ci fa sempre piacere. E poi, per farci complimenti. Per farci complimenti, che ci gratifica ancora di più. Poi potete scriverci per suggerirci delle notizie di cui noi non siamo a conoscenza, oppure, visto che facciamo anche telefonate a caso, per suggerirci qualche numero di telefono al quale eventualmente telefonare per avere qualche opinione in merito alle notizie di cui parliamo e che trattiamo. Prima però stavamo parlando di lavoro, quindi vorremmo in qualche modo concludere l'argomento con un aforisma. Un aforisma di Michelangelo Buonarroti, immagino che non sia una delle tartarughe ninja. Michelangelo. Quali sono le tartarughe ninja? Michelangelo. Raffaello, Leonardo, non lo ce so n'è una quarta forse, ma lei non ha figli. È come quindi... sette nani che nessuno si ricorda mai il settimo. Donatello, ci dicono qui. Pietro Lacorte, che è esperto di tartarughe ninja. Ne ha quattro a casa in una vaschetta. Il lavoro nobilita l'uomo e arricchisce qualcun altro. Michelangelo, tra l'altro, era uno degli artisti ricchi del suo tempo, insomma, no? Perché era il più desiderato. Quindi... Quindi è stato un aforisma detto per qualcuno, cioè era lui. O forse prima, arricchito. quando era giovane, forse esatto. Era scritto questo aforisma. Cambiamo argomento, si sa che il sabato è il giorno delle coppie, anche dell'amore, e allora noi dal Corriere Adriatico troviamo questa notizia, interessante, devo dire. Vuol far l'amore 3 volte al giorno, il marito non ce la fa e lei chiede il divorzio. Ha visto? Cioè... Ha capito. C'è chi ha il pane non ha i denti. Una donna di Dubai ha chiesto il divorzio dal marito perché è troppo pigro. La motivazione è in realtà ancora più clamorosa che la medesima richiesta di divorzio. Esatto. Pratica che negli Emirati non è vietata ma sconsigliata per le donne. Pare infatti che l'uomo non sia in grado di soddisfare le esigenze sessuali della donna, la quale pretende che il marito provveda ai propri doveri coniugali fra le 2 o le 3 volte al giorno. Ma proponiamoci, Manera, lei mandi il suo curriculum a questa donna e veda se magari la garantisca di poterla soddisfare. La donna ha affermato che l'uomo fa l'amore con lei solo 3 o 4 volte a settimana, cosa che la fa sentire profondamente insoddisfatta. A me profondamente invidioso. Quindi è stata controllata sia lei che anche il marito. Fatto sta che a questo punto la donna non si è data per vinta, così il marito si è dovuto sottoporre a un check-up medico per determinare la sua salute fisica e la capacità sessuale. Il processo non è ancora concluso. Rimaniamo in attesa, vedremo se ci manderanno i referti medici su... Ma lei sa perché funziona così questa cosa? Perché poi è una cosa comprensibile anche, perché sì. Mentre nell'uomo il rapporto sessuale funziona in qualche modo da calmante, nella donna il rapporto sessuale funziona da eccitante. Quindi l'uomo, una volta che ha terminato, è contento, tranquillo, a posto, fino al giorno dopo. Ci vado a riposare. Fuma la sigaretta e va a riposare. Invece nella donna è il contrario, comincia a farlo e poi comincia... Non può più smettere, non può più va smettere. In astinenza. Andrebbe avanti per ore, per giorni, senza smettere mai. Sì, ma non lo so. Non lo so, io quelle che ho conosciuto io, anzi, volevano smettere a metà. Anche nel mio caso, il coitus interrupts non era una scelta mia, ma era una scelta di lei. Dopo un minuto c'è basta, finiamola qui. Quindi non c'era rischio di avere figli. Allora, diciamo un paio di battute sulle prestazioni amorose sessuali. Sai che stanotte ho fatto l'amore con la mia ragazza per 5 ore di fila? Ci credo, anch'io una volta ho fatto 5 ore di fila per fare l'amore con la tua ragazza. Di chi è questa? Dei Pali e Dispari. Angelo e Marco che salutiamo. Allora troviamone un'altra. Se tutte le volte che ho fatto sesso avessi letto un libro, a quest'ora sarei un analfabeta. Lorenzo Bosio, battutista per hobby di Cuneo. Allora che prova. Salutiamo anche lui. Questa, l'ultima, via. Per avere successo con l'altro sesso, dite che siete impotenti. Lei non aspetta altro che smentirvi. Del grandissimo Cary Grant. Cary Grant! Che credo non abbia mai avuto problemi del genere. Dopo Cary. Aver fatto l'amore, cosa si faceva? Cosa si fa? Se magna, se fuma. Se magna abbacchio, agnello, apaiata, adaiata. Chi è che te lo prepara mentre fai l'amore? I maccheroni, cacio e pepe, se famo du spaghi, no? E questa a Roma. Ha visto come parlo bene il romanesco? Ma qui arriveranno telefonate di grandi complimenti da Roma. Mi sono girato e dicevo, oddio, dov'è Manera? Andiamo a mangiare la pagliata. Il piatto più colossale del mondo è questo: cammello ripieno di agnello, ripieno di pollo, ripieno di pesce. È tutto un ripieno, non è un piatto, è un ripieno. La fiera dell'est del culinaria. È un piatto da Guinness dei primati, è stato riconosciuto come il piatto più colossale del mondo. Perché è un cammello che è ripieno di agnello, ripieno di pollo, ripieno di pesce o uova sode a seconda delle varianti. È un piatto beduino e la preparazione richiede fino a 24 ore, anche per digerirla devo dire, perché poi è un piatto così. Una matriosca gigante sì. Fuori. E può sfamare fino a 100 persone. Questa è cucina etnica. E allora abbiamo chiesto a qualcuno di voi, casualmente cercato, cosa ne pensa della cucina etnica e anche di altri argomenti diciamo del genere. Vediamo. Pronto? Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del Sole 24 ore, la conosce? No. Bene, senta, stiamo facendo un sondaggio per capire se gli italiani sono favorevoli ai locali etnici, alla cucina etnica, oppure se si ritiene che in Italia bisogna mangiare italiano. Lei cosa ne pensa? Assolutamente contrario. Perché? Ci spieghi perché? Perché sono di destra e sono razzista. Cos'è che le dà fastidio dei locali etnici, per esempio? Puzzano, sono sporchi, non amo il loro cibo. Non ha mai mangiato niente di etnico? Mi fanno schifo. Visto che lei è un moderato, potrebbe dirci che cosa, se c'è qualche cosa che apprezza, diciamo, degli stranieri, almeno... No. E invece la cosa che trova peggiore, più rivoltante? Potremmo stare fino a mezzanotte. Ce ne dica un paio di queste cose che trova fastidiose. Dove vive? A Milano. Ecco, un giorno lei in metro morirà. La ringrazio per questa previsione. No, io a Roma morirò, ma morirò pure io. È bello quello. Moriremo insieme. Senta, e invece degli stranieri a est dell'Italia, cioè per esempio Roma. Hanno il DNA di rubare, matematico. Ho capito. Nel sangue. Del sangue, sono ladri. E allora noi mettiamo una voce camuffata di donna, così non la riconosce nessuno, d'accordo? Metti sta voce camuffata, tanto uguale. Grazie, grazie e buona giornata. Ciao caro, attenta quando prendi la metro. Ciao. E allora questo era il parere espresso da questo nostro ascoltatore, ribadisco, moderato, però ha argomentato le sue opinioni. La cosa bella di Radio 24 è che chiunque può argomentare le proprie opinioni anche senza filtro, diciamolo, Cevola, basta avere basta avere l'autorizzazione. Veniamo a un paio di battute sul cibo. Allora, la cosa più sorprendente di mia madre è che per 30 anni ci ha solo servito avanzi. Il pasto originale non è mai stato trovato. Il Calvin Trilli del 1935. Perché effettivamente le mamme di una volta erano brave sempre a riciclare gli avanzi. Vabbè, diciamo anche questa, famosa per gli addetti ai lavori. Quando ero piccolo, mia nonna mi portò a mangiare in una trattoria all'aperto. Cominciò a piovere, ci misi 3 ore per finire il brodo. Mario Zucca. Ah! Va bene, allora noi prima di salutarvi vogliamo lasciarvi con la consueta rubrica di Daniele Ceva, dove propone idee nuove per i palinsesti televisivi. Le idee di Daniele Ceva. Oh, bene, oggi propongo questa, una trasmissione un po' strana, parla un po' di sequestri, un po' di crime, ed è Sequestratori appassionati di atletica. Manera, le piace il titolo? Il titolo mi piace, vediamo come si svolge. Si svolge, sono questi sequestratori che ti rapiscono il figlio, la figlia, un parente, ti telefonano e ti dicono: allora, se volete rivedere il vostro figlio, ad esempio, anziché chiedervi dei soldi, vi chiedono una prestazione sportiva. Cioè, se volete rivedere vostro figlio, dovete farmi 100 metri in 9 secondi e 20. Capito. Non vogliono soldi, hanno anche un'etica, capisci? Il reality potrebbe anche svilupparsi, nel senso che si vede tutto l'allenamento che fa il padre, per esempio, per arrivare a questa prestazione. Esatto. Usain Bolt probabilmente è arrivato a questo record perché gli hanno rapito un parente. Il figlio. Allora, se voi direttori di rete foste interessati, potete contattarci qui a avanzi di maniera @radio24.it. Va bene. Vogliamo salutarvi con un avanzo di poesia, cioè con un momento di poesia che traiamo da un poeta sconosciuto, almeno che noi non conosciamo particolarmente. In questo caso la poesia si intitola Nulla ed è del poeta Tiziano Giromini. O Giromini. Minacciose nuvole all'orizzonte, come enormi guerrieri di questo incomprensibile nulla. Finita. Nuvole all'orizzonte come enormi guerriere. Vedete queste nuvole che arrivano? Esatto, un temporale estivo. Di questo incomprensibile nulla. Cioè arrivano le nuvole, sembrano guerrieri, e invece non c'è nulla. Nulla. Guarda quella nuvola, sembra un guerriero. È amara anche questa, perché lui vede queste nuvole che incombono e sono minacciose e arrivano però sul suo nulla, quindi a rendere più amara una situazione che già in partenza è amara. Ma la pioggia da cui potrebbe derivarne, cioè, potrebbe far rinascere vita nuova. C'è speranza. C'è speranza, qui. C'è amarezza, ma c'è anche speranza. Non in lei. La speranza del sabato del villaggio. Sabato, esatto. Pomeriggio, sabato del villaggio, con cui noi, insomma, vi salutiamo. L'idea di speranza per un vostro bel pomeriggio e una serata ancora migliore. Ciao da Leonardo Manera, Daniele Ceva, Pietro Lacorti, regia, il nostro coautore Marco Del Conte e l'ottimo curatore Guido Scotti. Ciao, grazie, buon sabato e buona domenica.